Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio, introduzione di Nadia Fusini. Io comincerei dal titolo di questo romanzo. Il titolo originale è The Luck of Barry Lyndon, A Romance of the Last Century, cioè La fortuna di Barry Lyndon, un romance del secolo scorso. Con questo titolo esce su Fraser's Magazine nel 1844 a puntate mensili. Ecco, invece la successiva edizione in volume autorizzata dall'autore vede il titolo cambiato e non è più The Luck, cioè la fortuna, ma The Memoirs, cioè le memorie di Barry Lyndon Esquire del, appunto, Regno di Irlanda. Allora, lo faccio notare perché è interessante questo. Nel primo caso lo scrittore Thackeray usa due termini molto interessanti e sono luck e romance. Luck vuol dire fortuna, ma non nel senso di fortune o misfortune, ma nel senso proprio del rischio del baro. Dunque già ci dà l'indicazione che qui è in gioco una storia dove c'è del rischio e dove c'è una vicenda di una sorte tentata, spesso anche con mezzi poco puliti, diciamo. Romance è anche un'altra parola interessante, perché non è novel, cioè il romanzo borghese che era appena da un secolo nato in Inghilterra e che si chiamava novel perché appunto pensava di essere nuovo, cioè di suggerire delle novità, di essere in presa diretta con la realtà, mentre romance ha un tono più antico, più arcaico, di una storia romanzesca, se non proprio romantica. Ecco, allora, il cambio invece in memoir è diverso, nel senso che appunto sono memorie e il personaggio Barry, che diventerà appunto Barry Lyndon, diventa il protagonista, diciamo colui che riscrive, che ripensa la sua vicenda, la sua storia dalla fine e racconta com'è andata. Ora, Barry si pone subito come un avventuriero, cioè lui è un irlandese appunto in cerca di fortuna, pronto ad affrontare i pericoli, le traversie della vita, pur di affermarsi, pur di compiere quella che sarà la sua ascesa, no? E il personaggio in effetti è pronto a tutto, nel senso che non ha nessuna morale che lo frena, anzi il gusto, diciamo, delle sue avventure è legato proprio a questa amoralità, no? Lui non si giudica per quello che fa, anzi continua a dire che lui è sincero ed è come se la sincerità lo scusasse delle sue malefatte, no? Naturalmente la cosa fondamentale da dire è che è lui stesso a raccontare la sua storia, naturalmente questo lo mette in grado di falsificare come gli pare, no, le cose. Va anche detto che Barry non è un cattivo, no? Non è un malvagio, è un uomo appunto con delle ambizioni, con delle aspirazioni, che purtroppo desidera qualcosa che non può avere se non barando. Però quando noi leggiamo il romanzo, in fondo, sì, certo, lui è un immorale, ma non è che sono molto migliori gli altri contro cui lui combatte, questi aristocratici, non sono migliori di lui, solo che loro appunto sono nel posto giusto per nascita, no? Quindi non c'è nessuno nel romanzo che rifulga per idealità, per idealismo, per bontà, no? Ecco, e invece bisogna assolutamente dire che è molto seducente l'immoralità di Barry Lyndon, è molto seducente. Certo, ripeto, qui è importante il fatto che Thackeray usi la prima persona, cioè che sia il personaggio a parlare, dunque è lui che a mettere in luce o in ombra certe lati del carattere, è lui a raccontarci la storia. Ecco, l'altra cosa che va detta è che quando uscì in Inghilterra questo romanzo non ebbe un'accoglienza calorosa. Diciamo che la società vittoriana, perché già in quel momento c'era sul trono la regina Vittoria, che poi sarà sul trono, come sappiamo, quasi un secolo, allora si percepisce che in questo romanzo c'è un attacco all'ipocrisia del mondo appunto vittoriano, e questa figura immorale insomma viene fortemente avversata. È immorale questo romanzo, tanto che lo stesso Thackeray non pare che non volesse che lo leggesse la propria figlia, per dire, no? E Leslie Stephen, che è il padre poi di Virginia Woolf, che era, facciamo un po' di gossip adesso, Thackeray ha 3 figlie, di cui la terza sposa Leslie Stephen, che è il padre di Virginia Woolf. Quindi siamo nella intelligenza londinese, uomini di lettere appunto, e lo dico perché appunto Leslie Stephen stesso, che non era un bigotto, no? Era un intellettuale di una certa mente libera, aperta, ecco, lo sconsiglia da leggere. Dunque è un romanzo molto interessante, è un romanzo molto originale anche se riprende un certo tipo di romanzo picaresco, anche se riprende un certo tipo di romanzo che addirittura c'era una specie di etichetta Newsgate Novels, cioè romanzi dove ci sono eroi che vengono da Newsgate, che è la prigione di Londra, dove appunto finiscono i bari, i truffaldini, coloro che non possono pagare i debiti, ed effettivamente erano diventati appunto degli eroi popolari, probabilmente anche perché rispecchiavano una crisi economica che portava tanta gente in povertà. Ecco, e adesso vi lascio alla lettura di Massimo Populizio, che vi accompagnerà per tutta l'estate con queste bellissime pagine. Dai tempi di Adamo in poi, non si è mai fatto danno a questo mondo senza che ci fosse sotto una donna. E da quando ha avuto origine la nostra famiglia, deve essere stato molto vicino ai tempi di Adamo, tanto antica, nobile e illustre, è la stirpe dei Berri, come tutti sanno. Le donne hanno svolto un ruolo cruciale nei destini della nostra stirpe. Immagino che non ci sia gentiluomo in Europa che non abbia sentito parlare della casata dei Berri di Berrioch, del Regno d'Irlanda. Benché io, da uomo di mondo, abbia imparato a disprezzare di cuore le pretese di nobiltà di certi impostori che non hanno più sangue blu del lacchè che mi luci dagli stivali, e per quanto io disdegni e derida le vanterie di tanti miei compatrioti, che sono tutti rampolli dei re d'Irlanda, e se possiedono un fondo da farci appena pascolare un porco, ne parlano come di un principato. Tuttavia, devo affermare che la mia famiglia fu la più nobile dell'isola e forse dell'universo mondo. Purtroppo, i nostri possedimenti ci sono stati sottratti in vario modo. Guerre, tradimenti, lo scorrere del tempo, la folle prodigalità degli antenati, la fedeltà all'antica fede e all'antico monarca. Perciò oggi sono insignificanti, ma un tempo erano immensi e abbracciavano molte contee in un'Irlanda 100 volte più prospera di adesso. Metterei senz'altro la corona irlandese in cima al mio stemma, se non ci fossero tanti sciocchi che, arrogandosi quest'onore, ne fanno una cosa volgare. non fosse stato per una donna, quella corona ora forse l'avrei sulla testa. Sobbalzate, non mi credete. Perché no, vi dico. Se a condurre i miei compatrioti fosse stato un valoroso e non quei furfanti piagnucolosi che piegarono il ginocchio davanti a Riccardo II, gli irlandesi avrebbero potuto essere liberi. E se a incontrare quel mascalzone sanguinario di Oliver Cromwell ci fosse stato un capo risoluto, ci saremmo scossi di dosso l'Inghilterra una volta per tutte. Ma non c'era un Berry in campo contro l'usurpatore. Al contrario, un mio antenato era sbarcato insieme al suddetto re e aveva sposato la figlia dell'allora re di Munster, di cui aveva trucidato i figli in battaglia. Così, al tempo di Oliver, era troppo tardi perché un capo della casata dei Berry lanciasse il grido di guerra contro il birraio assassino. Non eravamo più signori delle nostre terre. La nostra infelice stirpe aveva perduto i suoi possedimenti 100 anni prima in conseguenza del più vergognoso dei tradimenti. Questo lo so per certo, perché mia madre mi ha raccontato spesso tutta la storia e in più l'aveva riportata in un albero genealogico che aveva ricamato in fil di lana ed esposto nel salone giallo di Berryville, dove vivevamo. Il feudo irlandese che ora appartiene ai Lyndon fu un tempo proprietà dei miei antenati. Rory Berry lo possedeva già ai tempi di Elisabetta e in più aveva metà del Munster. I Berry a quell'epoca erano sempre in lotta con gli O'Mahony. Ora, accadde che un certo colonnello inglese passò per le terre dei Berry con la sua truppa il giorno stesso che gli O'Mahony erano penetrati nelle nostre tenute, portandosi via come bottino una caterva di greggi e bestiame. Questo giovane inglese, che si chiamava Roger Lyndon, venne accolto da Rory Berry come un ospite d'onore. E dato che Rory stava per compiere una spedizione punitiva nelle terre degli O'Mahony, l'inglese gli offrì il suo aiuto e l'appoggio dei suoi lancieri. A quanto pare si comportò così bene che gli avversari vennero sbaragliati, tutte le proprietà dei Berry furono recuperate e con esse, secondo l'antica cronaca, il doppio dei beni e il del bestiame che gli O'Mahony ci avevano sottratto. Si era all'inizio dell'inverno e Berry invitò calorosamente il giovane militare inglese a trattenersi nella sua casa di Berryog. Ci rimase diversi mesi mentre i suoi uomini stavano acquartierati nelle casette circostanti, gomito a gomito con gli irregolari a seguito dello stesso Berry. Gli inglesi trattarono gli irlandesi con insolenza inaudita, come sempre fanno. Avvenivano di continuo liti e omicidi. Alla fine la popolazione deliberò di eliminarli. Il figlio di Berry, da cui io discendo, era ostile agli inglesi quanto ogni altro uomo del suo feudo. Quando loro, invitati ad andarsene, si rifiutarono, lui si consultò con i suoi amici e insieme decisero di annientarli dal primo all'ultimo. Ma avevano messo a parte del complotto una donna, proprio la figlia di Berry. Era innamorata dell'inglese e gli rivelò tutto il segreto. Così, quei maledetti inglesi prevennero il giusto massacro che li attendeva, piombando sugli irlandesi e trucidando il mio antenato Frederick Berry insieme a molte centinaia dei suoi uomini. La croce piantata a Berrycross segna il luogo dove avvenne quell'infame macello. Poi, Lyndon sposò la figlia di Roderick Berry e rivendicò le sue terre, e benché i discendenti di Frederick fossero in vita, e lo sono tuttora nella mia persona, nella causa di fronte ai tribunali inglesi, la proprietà venne assegnata all'inglese, come è sempre avvenuto nelle vertenze tra gli inglesi e gli irlandesi. Così, se non fosse stato per la debolezza di una donna, mi sarebbero toccate per nascita quelle proprietà che più tardi acquisii per mio merito, come sentirete. Ma torniamo alla storia della mia famiglia. Mio padre era ben noto nei migliori circoli di questo regno e di quello d'Irlanda con il nome di Roaring Harry Berry. Come molti altri cadetti di nobile famiglia, era stato educato alla carriera forense e aveva fatto il suo tirocinio presso un celebre avvocato di Sackville Street, nella città di Dublino. Considerati il suo ingegno superiore e la sua capacità di apprendimento, sarebbe certo divenuto una figura eminente nella sua professione, se le sue qualità sociali, l'amore per la caccia, per i cavalli e la straordinaria raffinatezza dei suoi modi non l'avessero destinato a più alte sfere di attività. Già quando era praticante nello studio dell'avvocato, manteneva 7 cavalli da corsa e partecipava regolarmente alle cacce di Kildare. Sul suo cavallo grigio, Endimione, disputò con il capitano Panther quella famosa gara che gli appassionati non hanno mai dimenticato. Per ricordarla, io feci dipingere lo splendido quadro che era appeso sopra il camino della mia sala da pranzo, a Castle Lindon. Un anno dopo, ebbe l'onore di montare lo stesso Endimione davanti al defunto re Giorgio II a Epsom Downs, guadagnandosi sia il trofeo che la benevola attenzione dell'augusto sovrano. Pur essendo il secondogenito, il mio amato padre ereditò per via legittima i beni di famiglia, ormai ridotti a una miserabile rendita di 400 sterline annue, perché suo fratello maggiore, Cornelius Berry, detto lo Chevalier, rimase fedele all'antico credo a cui era stata educata la mia famiglia. Non solo prestò servizio con onore, combattendo in terra straniera, ma mosse persino contro la sacra maestà di Giorgio II negli infelici moti scozzesi del 45. Dello Chevalier sentiremo di nuovo parlare. Per la conversione di mio padre devo ringraziare la mia cara madre, Miss Belle Brady. A suoi tempi lei era la più bella donna di Dublino, nota a tutti come la brillante. Mio padre la vide a un ricevimento e subito provò per lei una passione sfrenata, ma l'anima di Belle Brady era troppo elevata per sposare un papista o un praticante legale. E così, per suo amore e per via delle buone e vecchie leggi allora in vigore, mio padre infilò le scarpe di zio Cornelius e si prese i beni di famiglia. A parte il potere dei begli occhi lucenti di mia madre, molte persone e della migliore società contribuirono a questa felice metamorfosi. Mia madre mi ha spesso raccontato, ridendo, la storia della biura di mio padre solennemente pronunciata in una taverna in compagnia di 2 o 3 altri bellimbusti della città. Quella notte stessa Roaring Harry vinse 300 monete d'oro giocando a Farone e l'indomani mattina comunicò le necessarie informazioni sul conto di suo fratello. Purtroppo la conversione causò un certo raffreddamento dei rapporti tra mio padre e mio zio Corney, che di conseguenza si unì ai ribelli. Ora che si era appianata la maggiore difficoltà, Milord Bagwig prestò a mio padre il suo yacht e la bella Belle Brady si lasciò convincere a fuggire con lui in Inghilterra, benché i suoi genitori si opponessero al matrimonio e i suoi corteggiatori, come lei mi ha raccontato migliaia di volte, fossero moltissimi e fra i più ricchi di tutto il regno d'Irlanda. Si sposarono al Savoy. Poco dopo morì mio nonno e il gentiluomo Harry Berry prese possesso dei beni paterni e fece onore al nostro illustre nome per tutta Londra. Ferì in duello il famoso conte Tiercelin, divenne membro della Wilds e si diede a sorbire cioccolata in tutti i caffè, e anche mia madre non si curava affatto. Finalmente, dopo la sua giornata trionfale all'ippodromo di Newmarket davanti a sua sacra maestà, la fortuna di Harry sembrava fatta, dato che il grazioso monarca aveva promesso di provvedere al suo futuro. Ma, ahimè, di lui si occupò un altro monarca, la cui volontà non consente ritardi né rifiuti. La morte, voglio dire, che ghermì mio padre alle corse di Chester, lasciandomi orfano e indifeso. Pace alle sue ceneri. Non era privo di colpe e dissipò tutte le nostre principesche proprietà, ma era l'uomo più ardito che mai svuotò un bicchiere o puntò i dadi, e quando sedeva nel suo tiro a 6 si vedeva che era un vero uomo di mondo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli,